Benvenuti a The Deep Dive. Oggi ci tuffiamo in un concetto che, fa discutere non poco. Il professionista premium. E in particolare lo analizziamo nel mondo dell'istruzione. Un tema caldissimo, direi, soprattutto in un'epoca, dove la tecnologia avanza così rapidamente. Ciao, è proprio così. Per questa analisi ci affidiamo a spunti interessanti del blog Concetti Contrastivi, che esplora, diciamo, le ambiguità del digitale, soprattutto in ambito educativo. Concetti Contrastivi, sì, un blog noto per il suo approccio critico, no? Che svela le dinamiche di potere, diciamo, legate alla tecnologia, un punto di vista stimolante senza dubbio. Sì, direi proprio di sì, Proc. Il blog ci presenta questa figura del docente premium, un insegnante che, grazie a strumenti digitali avanzati, si discosta un po' dalla figura tradizionale. Un docente, quindi, che può personalizzare l'apprendimento per ogni studente, creare contenuti su misura, monitorare i progressi in tempo reale. Sembra fantastico a prima vista, no? Quasi futuristico. Ma, come spesso accade, la medaglia ha due facce. Vero. Il rovescio della medaglia, in questo caso, potrebbe essere il rischio di creare un sistema, diciamo, educativo a due velocità, dove chi ha accesso a queste tecnologie è avvantaggiato. Ed è proprio questo il punto, no? Quali sono i rischi di discriminazione legati a questa figura del docente premium? Come possiamo garantire che l'innovazione non crei ulteriori disuguaglianze? Domande cruciali a cui cercheremo di dare una risposta. Per farlo, analizzeremo la mappa concettuale, sempre da Concetti Contrastivi, che illustra competenze e strumenti di un docente premium. Una mappa che ci aiuterà a sviscerare, le diverse sfaccettature di questa figura, mettendone in luce potenzialità ma anche i rischi. Esatto. La mappa è divisa in 6 sezioni: testo, audio, video, immagini, rappresentazioni grafiche e supervisione professionale. Ogni sezione descrive un'area di competenza specifica e mostra come la tecnologia può amplificare, diciamo, le capacità di un insegnante. Partiamo dalla sezione testo. Qui si parla di strumenti per la produzione di materiali didattici, come software per la sintesi e l'analisi di contenuti, per l'adattamento personalizzato, la traduzione automatica, il miglioramento della qualità del testo. Pensiamo ad esempio a un software che genera automaticamente esercizi in base al livello di apprendimento di ogni studente. Oppure a un traduttore istantaneo che rende accessibile il materiale a studenti di diverse lingue. Certo, le potenzialità sono evidenti. Ma come ci si assicura che queste tecnologie siano accessibili a tutti gli insegnanti, a tutti gli studenti? E poi le implicazioni etiche. Chi controlla la qualità dei contenuti generati? Come si proviene la diffusione di informazioni, errate o distorte? Sono tutte domande importanti che ci spingono ad andare oltre l'entusiasmo iniziale, no? Per la tecnologia e a riflettere sulle possibili conseguenze. Passiamo alla sezione audio. Qui si parla di podcast, audiolibri, software per la trascrizione e persino tecnologie per la clonazione vocale utili per l'accessibilità per le persone con disabilità. Un insegnante premium potrebbe ad esempio creare podcast personalizzati per ogni lezione oppure utilizzare un software che trascrive lezioni in tempo reale per gli studenti con difficoltà uditive. Senza dubbio, la tecnologia audio può rivoluzionare l'apprendimento, renderlo più flessibile, più inclusivo. Ma anche qui sorgono domande, no? Come si garantisce la qualità dei contenuti audio? E la privacy degli studenti quando si usano tecnologie come la clonazione vocale. Giusto. È fondamentale valutare attentamente rischi e benefici di ogni strumento senza dare per scontato che la tecnologia sia sempre la soluzione migliore. Proseguiamo con la sezione video. Qui si parla di software per l'adattamento, la manipolazione, la sottotitolazione e la sintesi di video a scopo didattico. Un insegnante premium potrebbe ad esempio creare video lezioni interattive con quiz integrati oppure adattare un documentario magari complesso a livello di comprensione dei suoi studenti. Certo, l'uso del video può rendere l'apprendimento più coinvolgente, più stimolante. Ma è importante considerare anche i possibili effetti, negativi. Ad esempio, un uso eccessivo del video potrebbe avere un impatto negativo sullo sviluppo delle capacità di lettura, di concentrazione degli studenti. E come si fa a garantire che i contenuti video siano inclusivi, rappresentativi della diversità? Domande cruciali che ci invitano a riflettere sull'importanza di un uso, equilibrato e consapevole da tecnologie in ambito educativo. E arriviamo alla sezione immagini, dove si parla della produzione di input visivi per migliorare la comprensione dei contenuti. Un software che genera immagini personalizzate per illustrare un concetto scientifico, oppure un database di immagini ad alta risoluzione per l'insegnamento della storia dell'arte. Sono solo alcuni esempi di come la tecnologia può arricchire l'apprendimento visivo. Certo, le immagini possono rendere l'apprendimento più intuitivo, più memorabile, ma è importante fare attenzione alla scelta delle immagini, assicurandosi che siano inclusive, rappresentative della diversità. Assolutamente. La tecnologia non deve essere uno strumento per rafforzare stereotipi o pregiudizi, ma per promuovere una visione del mondo più equa, più inclusiva. Passiamo ora alla sezione rappresentazioni grafiche. Qui si parla di software per la creazione di grafici e diagrammi, sia in modo automatico che semiautomatico. Si parla anche di competenze avanzate come la retroingegneria, che permette di smontare un concetto complesso per analizzarne il funzionamento. Un docente premium potrebbe ad esempio utilizzare un software per creare grafici interattivi che mostrano l'evoluzione di un fenomeno storico, oppure spiegare un processo scientifico con un diagramma 3D. Certo, le rappresentazioni grafiche possono rendere accessibili concetti astratti complessi. Ma è importante che gli studenti imparino anche a creare e interpretare autonomamente questi strumenti, senza dipendere completamente dalla tecnologia. Concordo. L'obiettivo non è sostituire il pensiero critico con la tecnologia, ma utilizzare la tecnologia per potenziare il pensiero critico. Infine, analizziamo la sezione supervisione professionale. Qui si parla di software per la gestione della documentazione, la standardizzazione dei materiali didattici, la pianificazione delle attività e l'adattamento personalizzato dell'apprendimento. Un docente premium potrebbe, ad esempio, utilizzare un software per monitorare i progressi di ogni studente e creare piani di studio personalizzati, oppure per gestire la comunicazione con i genitori e condividere i risultati in modo trasparente. Certo, la tecnologia può supportare un'organizzazione più efficiente, una migliore comunicazione. Ma è importante fare attenzione a non creare un sistema di controllo eccessivo che limiti la libertà degli studenti, degli insegnanti. Esatto. La tecnologia dovrebbe essere uno strumento al servizio dell'educazione, non uno strumento per controllare o limitare l'educazione. Questa mappa, insomma, ci offre una panoramica completa delle potenzialità di un docente premium. Sì, ma come dicevamo prima, è importante non dimenticare i rischi di discriminazione. Non possiamo ignorare che l'accesso a queste tecnologie non è uniforme e questo potrebbe creare un divario, diciamo, ancora più profondo tra chi ha e chi non ha. Vero. Il rischio di un sistema educativo a due velocità, ecco, è concreto e va affrontato con attenzione. E Concetti Contrastivi sottolinea proprio questo. Il blog, infatti, ci invita a riflettere su come il concetto di premium si estende a tutti gli attori del sistema educativo. Studenti, genitori e naturalmente insegnanti. Un'analisi quindi che ci aiuta a capire meglio la complessità del problema. Partiamo dagli studenti premium. Secondo il blog, questi studenti hanno accesso a tecnologie avanzate che li aiutano a apprendere in modo più efficiente. Pensiamo ad esempio a studenti che possono permettersi tutor virtuali personalizzati o software che analizzano il loro stile di apprendimento. Risorse che ovviamente non sono accessibili a tutti. E questo crea un divario non solo in termini di opportunità di apprendimento, ma anche di risultati. Esatto. E questo divario, in un certo senso, si riflette anche sulla figura dei genitori. Il blog parla di genitori premium, ovvero genitori che hanno il tempo, le risorse, le competenze digitali per supportare l'apprendimento dei loro figli in modo, diciamo, ottimale. Genitori che possono acquistare software educativi, seguire corsi online per genitori, monitorare i progressi dei figli attraverso piattaforme digitali, un modello di genitorialità, insomma, che non è alla portata di tutti. E questo ci riporta alla figura del docente premium. Il blog sottolinea che non tutti gli insegnanti avranno accesso alle tecnologie, alle competenze necessarie per diventare premium. Questo dipende da diversi fattori: età, formazione, accesso a finanziamenti, supporto della scuola, e il rischio è di creare una gerarchia tra gli insegnanti dove solo alcuni sono considerati all'avanguardia. Una gerarchia che potrebbe portare a una distribuzione non equa delle risorse, delle opportunità di sviluppo professionale. Insomma, il concetto di premium nel sistema educativo, ecco, solleva diverse questioni etiche e sociali. È fondamentale garantire un accesso equo a tecnologie e risorse per tutti. Studenti, genitori, insegnanti. Solo così si può evitare di creare un sistema educativo, diciamo, a due velocità. Ma come si può raggiungere questo obiettivo? Quali sono le possibili soluzioni? Beh, sicuramente un primo passo è aumentare la consapevolezza del problema. Bisogna parlare di queste disuguaglianze, analizzarne le cause e le conseguenze. E poi? Poi bisogna agire a livello di sistema. Potremmo pensare a programmi di alfabetizzazione digitale per studenti e genitori, a un accesso gratuito a internet per le famiglie a basso reddito, a una formazione specifica per gli insegnanti sull'uso delle tecnologie educative. E non dimentichiamo l'importanza di sviluppare software educativi accessibili e inclusivi che tengano conto delle diverse esigenze degli studenti. Assolutamente. La tecnologia dovrebbe essere uno strumento per ridurre le disuguaglianze, non per amplificarle. E qui torniamo al ruolo cruciale del blog Concetti Contrastivi. Ci invita a guardare oltre la superficie, a interrogarci sulle implicazioni etiche e sociali della tecnologia. Ci ricorda che la tecnologia non è neutrale, è progettata da esseri umani con i loro pregiudizi, le loro visioni del mondo. E quindi è fondamentale sviluppare un senso critico, no? Nei confronti della tecnologia, per usarla in modo consapevole e responsabile. Esatto. Dobbiamo chiederci a chi giova questa tecnologia, quali sono i suoi effetti a lungo termine, quali valori promuove? Domande essenziali per costruire un futuro dell'educazione che sia davvero equo e inclusivo. Un futuro in cui la tecnologia sia al servizio dell'apprendimento e dello sviluppo di tutti, senza lasciare indietro nessuno. E per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale unire le forze, studenti, genitori, insegnanti, politici, ricercatori, tutti dobbiamo lavorare insieme. Dobbiamo creare un dialogo aperto, costruttivo, basato sulla condivisione di conoscenze e di esperienze. E sulla consapevolezza che il futuro dell'educazione è una responsabilità collettiva. Esatto. E questo ci riporta alla mappa concettuale del docente premium. Abbiamo visto le sue potenzialità, ma anche i rischi di discriminazione. Quindi, come possiamo conciliare l'innovazione tecnologica con l'equità, l'inclusione? La chiave sta nell'approccio. Non basta adottare tecnologie innovative, bisogna farlo in modo strategico, consapevole. Cosa intendi? Innanzitutto, dobbiamo partire da un'attenta analisi dei bisogni, degli studenti, degli insegnanti. Quali sono le sfide che la tecnologia può aiutarci a superare? E poi? Poi dobbiamo scegliere tecnologie che siano accessibili, inclusive, progettate per rispondere alle esigenze di tutti gli studenti. Senza dimenticare la formazione. Gli insegnanti devono essere adeguatamente preparati a utilizzare queste tecnologie in modo efficace. Certo. E la formazione deve essere continua per stare al passo con l'evoluzione della tecnologia. E infine è fondamentale monitorare l'impatto di queste tecnologie per valutare se stanno effettivamente contribuendo a creare un sistema educativo più equo, più inclusivo. Esatto. La valutazione deve essere costante e partecipata, coinvolgendo studenti, genitori, insegnanti. Insomma, l'innovazione tecnologica nell'educazione è un processo, complesso, delicato, direi, che richiede un'attenta pianificazione, e un monitoraggio costante. Vero, non possiamo permetterci di adottare la tecnologia in modo, diciamo, superficiale, no? Senza considerare le possibili conseguenze a lungo termine. Già, a proposito di conseguenze a lungo termine, mi viene in mente un altro aspetto interessante sollevato da concetti contrastivi, la questione, del modello di conoscenza che la tecnologia promuove. Ah, un punto cruciale. Il blog infatti contrappone il modello di conoscenza, diciamo, aperto, collaborativo, a quello, proprietario, competitivo del capitalismo di piattaforma. Esatto. Concetti contrastivi ci ricorda che la conoscenza è un bene comune, che dovrebbe essere accessibile a tutti, non solo a un'elite. Giusto. E che la condivisione della conoscenza è fondamentale per la crescita, individuale e collettiva. Un principio che, dovremmo applicare anche al mondo dell'educazione. Immaginiamo un sistema educativo in cui insegnanti, studenti e ricercatori collaborano apertamente per creare e condividere materiali didattici di alta qualità, accessibili a tutti. Un sistema quindi in cui la conoscenza non è un privilegio di pochi, ma un patrimonio condiviso, un motore di innovazione, di progresso sociale. Un sistema che promuove la creatività, l'inclusione, la solidarietà, valori che, dovrebbero essere al centro di ogni processo educativo. Sarebbe davvero un cambio di paradigma, no? Rispetto al modello attuale, spesso basato sulla competizione, sull'individualismo. E per realizzare questo nuovo modello di educazione, dobbiamo ripensare il ruolo della tecnologia, non più come strumento di controllo, di profitto, ma come strumento di liberazione, di condivisione. Giusto, dobbiamo sviluppare piattaforme educative open source, accessibili a tutti, che permettano a chiunque di contribuire, di accedere a risorse di alta qualità. Dobbiamo promuovere una cultura della collaborazione, della condivisione, in cui la conoscenza è un bene comune e non una merce da vendere al miglior offerente. Esatto, e dobbiamo lottare contro ogni forma di discriminazione, di esclusione, per garantire a tutti, le stesse opportunità di apprendimento, di crescita. Questa è la sfida che ci attende e io sono convinto che insieme possiamo vincerla. Il futuro dell'educazione è nelle nostre mani. Abbiamo il dovere di creare un sistema educativo giusto, equo, accessibile a tutti. Cari ascoltatori, vi invitiamo a continuare a riflettere su questi temi, a informarvi, a condividere le vostre idee e a impegnarvi per un futuro dell'educazione più equo, più inclusivo. Grazie per averci accompagnato in questa immersione nel mondo del docente premium. Ricordate, la conoscenza è potere, ma solo se è condivisa.